Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 7 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini. Comincia Il riposo del guerriero, che prende spunto dalla puntata della settimana scorsa. Prima di raccontarvi di cosa parleremo oggi, a parte che chi visita il nostro sito www.radio24.it o la nostra pagina di Facebook sa già di cosa parleremo, però prima di svelarlo agli altri vi ricordo come sempre i numeri, il numero per i vostri messaggi 349-238-6666, e poi anche oggi giocheremo con il mistero in 24 minuti. Come sempre, fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, e la settimana scorsa i 1000 euro ve li siete portati a casa, e quindi, al contrario di come dice qualcuno, talvolta è possibile riuscire a dare la risposta proprio grazie solo al primo indizio. Ovviamente più indizi ascolterete più il premio si abbasserà, però la settimana scorsa ce l'avete fatta. Il primo indizio di questa settimana, eccolo qua. Giova Liga Pelù, così si chiamava il trio che cantava questa canzone. Questo è il primo indizio per prenotarsi da adesso. Il numero verde è questo: 800 24 00 24. Abbiamo anche la pagina Facebook, come dicevo prima, e io non capisco più niente. Da quando hanno cambiato l'impostazione io mi perdo. Adesso ci ho messo 3 a capire come funzionava prima. Adesso hanno cambiato tutto, c'ero appena arrivato a capir bene, diciamo, e no, adesso non c'ho voglia. Per cui voi scrivete pure, se mi dovessero sfuggire i vostri messaggi non arrabbiatevi, il fatto è che non vedo, non so dove andarli a pescare. Vabbè, lasciamo perdere. Oggi prendo spunto dalla settimana scorsa. Non so se ricordate Sandro Bardelli, che è ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica dell'Osservatorio di Bologna, ci aveva raccontato che spesso quando i bambini vanno a vedere le loro dimostrazioni per capire come si muove il cielo, fanno delle domande assurde. E la domanda, non assurde tra virgolette, una delle più curiose era: ma gli astronauti come fanno ad andare in bagno? Che è un casino lì, no? Dove fai? Allora questa risposta ci aveva incuriositi, aveva incuriosito anche degli ascoltatori. Allora ho pensato, facciamo una puntata sul come si fa a. Abbiamo preso così degli esempi, dei mestieri non proprio comuni, e oggi cercheremo di raccontarvi, anzi cercheranno di raccontare gli ospiti, come si fa a svolgere il proprio lavoro, quali sono le difficoltà che incontrano, perché tante cose sembrano molto semplici e poi invece sono molto più complicate di quanto appaiono. Oggi allora cercheremo di raccontarvele e di farvi entrare in mondi a molti un po' sconosciuti, diciamo. Ecco tutto, quindi insomma spazieremo un po', e se avete qualche curiosità, come sempre, SMS o la pagina di Facebook. E per cominciare, diciamo che c'è sempre qualcosa da fare. Non sapete che piacere mi fa ripescare questa traccia di un po' di anni fa di Giorgio, che credo che sia una delle canzoni più belle che le abbia mai cantato, che le abbiano mai scritto, per cui così era bello e piacevole ascoltarla. Poi dice una gran verità, c'è sempre qualcosa da fare e anche curiosità da soddisfare. Sandro Bardelli, ciao, buona domenica, bentornato. Ciao, grazie, ciao. Sai che è colpa tua, la puntata di oggi, ovviamente, colpa e merito soprattutto, colpa nessuna. Merito anche dei bambini che vi fanno domande curiose. Eravamo rimasti lì, molti ascoltatori hanno scritto dicendo: vabbè, noi non siamo bambini, però siamo curiosi lo stesso, come fanno gli astronauti a puntini puntini. Allora partiamo da lì, allora, dalle domande che vi pongono i bambini, alle quali noi stessi come genitori non riusciamo a dare una risposta, o ci arrampichiamo sui vetri per inventarcene una. Allora cominciamo proprio da quella domanda, quella più scabrosa tra virgolette: gli astronauti come fanno a espletare le loro funzioni corporali? Beh, è stata una cosa estremamente difficile all'inizio dei viaggi spaziali capire per gli ingegneri come far andare in bagno gli astronauti, anche perché per esempio quando si va a fare la pipì, la cosa più devastante devastante che ci può essere nella stazione spaziale o negli sulle astronavi sono le goccine. Cioè volano, ma è vero che volano? Volano come delle bolle di sapone. Certo. E poi ovviamente, oltre lo schifo, si infilano dentro i computer e fanno dei corticircuiti. Per cui praticamente quando si va a fare la pipì bisogna farla dentro un aspirapolvere. Quindi praticamente c'è un tubone, sì, la si fa lì dentro e questa viene aspirata, quindi praticamente non fatelo a casa. No, certo, direi di no. Che se gli ascoltatori stanno già pensando, stanno già andando oltre, diciamo, quello che stiamo dicendo. Comunque va bene. Sì, quindi, ovviamente. Hanno un sistema di aspirazione, ecco, questo ecco, così ecco, funziona. Ecco, non andiamo oltre, rimaniamo nei bambini. Sì. Ecco. E invece per andare a fare... diciamo la cacca, sì, ecco, scusate, si chiama così, certo. Sì. C'è il problema che il signor Newton aveva scoperto una legge che c'è il principio di azione e reazione, ed è lo stesso motivo per cui quando noi mettiamo i pattini e spingiamo contro il muro, non è il muro a spostarsi, siamo noi che ci spostiamo. Esattamente così. Fermati lì, gli aggiornamenti sul traffico, perché poi ci dai la soluzione. Il riposo del guerriero. Strade in diretta. L'autosole è chiusa per il disinnesco di un ordigno bellico tra Caianello e Santa Maria Capua Vetere nelle due direzioni. Riapertura prevista intorno alle 14. Per chi viaggia in treno invece circolazione interrotta tra Domodossola e Varzo sulla linea Milano-Domodossola per lavori in galleria. Fino alle 19 treni sostituiti con autobus. È tutto, a più tardi. Il riposo del guerriero. Sandro, rieccoci qui. Allora, dicevamo che Newton aveva capito che insomma le cose si muovono in rapporto come azione e reazione. Certo. È lo stesso principio della partenza di un razzo. Un razzo come fa ad andare verso lo spazio? Perché emette a una certa velocità del materiale verso il basso, quindi è la classica fiamma e l'emissione di gas verso il basso, e come reazione il missile va verso l'alto. Chiaramente quando noi andiamo in bagno e ci sediamo sul water, stiamo in qualche modo ricordando la partenza di un missile, purtroppo per noi. E quindi devono legarsi, fisicamente legarsi con delle corde al water. No, scusa, vuol dire che spingendo tu voli? Cioè voleresti? Se tu parti verso l'alto, senza gravità... Noi rimaniamo attaccati perché c'è la gravità che ci spinge verso il basso. Certo, e mettendo certo verso il basso delle cose siamo come dei missili. Siamo che in una sparati verso l'alto. Chiaro, quindi sì, dobbiamo legarci, questo è. Dobbiamo legarci. E di nuovo c'è tutta questa cosa dell'aspirapolvere che deve aspirare tutta la parte solida, la parte liquida. Ora la parte liquida viene in qualche modo riciclata, viene depurata, e addirittura un astronauta mi ha confessato che nei primi tempi faceva un po' impressione bere dell'acqua purificata che prima era stata la sua pipì. Ecco, quindi questa che sembra una diceria in realtà è vero, perché questa cosa si raccontano, poi non capisci mai se si tratta di leggende metropolitane. Io personalmente non ho a che fare con astronauti tutti i giorni, mm-hmm, e quindi appunto se sono finzioni oppure se poi è realtà, a quanto pare è realtà. Sì, è abbastanza, diciamo, tra virgolette, semplice depurare e separare la parte liquida dalla parte da scartare. E dopo un po', ovviamente, viene tutto espulso nello spazio. Però, come vedete, l'assenza di gravità provoca dei problemi. Giusto per avere un'idea, non si possono fare routini, o è molto difficile fare routini nello spazio, perché il fatto che l'aria ci venga verso l'alto, diciamo dallo stomaco verso la bocca, è un effetto del galleggiamento di un gas più leggero dell'aria. L'aria viene tenuta verso il basso dalla gravità, diciamo il gas invece viene portato verso l'alto, e quindi noi emettiamo questa aria nello spazio. Questo è molto più difficile, estremamente difficile, e quindi estremamente difficile fare la gara di routini tra astronauti. Adesso faccio una domanda idiota io, però, a questo punto, ma quindi è più difficile da digestione? O sarebbe più difficile se avessimo un pasto come quello comune? Diciamo che per fortuna no, perché il nostro stomaco, sì, ha dei movimenti chiamati peristaltici, e il nostro stomaco e intestino, che ci pensa lui con i suoi movimenti a spingere il cibo verso il basso. Quindi non è tutta gravità, c'è certo anche la muscolatura del nostro corpo. È una sorta di pompa, no? Per cui ecco, quindi riusciamo, quindi non abbiamo questo tipo di difficoltà. Però certo che queste non sono cose, solo i bambini riescono a pensare a queste domande, perché gli adulti non so perché non verrebbero mai in mente. Poi i bambini ti posso assicurare che davanti a un pubblico, quando arriva il bambino che mi dice "Ma scusa", per un attimo rimani congelato, poi ti sciogli. Anche perché tu hai le risposte, la difficoltà è quando le risposte non le hai. Perché si cade, vi chiedono. Questo invece, la perché si cade, pensa che è addirittura un mistero che non abbiamo ancora risolto. Perché all'inizio Aristotele diceva, ma la gente cade perché è inciampa. Certo, inciampa e cade, normale. E tutti i corpi tendono ad andare verso il centro della Terra. Giusto. Il signor Newton, quando gli è arrivata la famosa mela in testa, ha scoperto una forza di gravità. La forza di gravità è una specie di calamita, di forza che ci calamita verso i corpi più pesanti, e questo quindi è, diciamo che un pianeta molto grosso ci fa schiacciare molto di più verso la Terra, e quindi una caduta sarebbe molto più disastrosa su un pianeta molto massivo, molto grosso. Ovviamente sulla Luna la caduta, visto che la Luna ha meno massa, è meno grossa, la caduta sulla Luna è molto meno dannosa per noi, e quindi è tutta dovuta alla forza di gravità. Poi ovviamente il signor Einstein ha cambiato un po' le nostre concezioni, però sostanzialmente siamo rimasti uguali. È dovuta alla presenza della Terra. La Terra è molto grossa, quindi ci attira molto fortemente verso il suo centro, e quindi è il motivo per cui si cade. Sulla Luna si cade un po' meno, ci si fa meno male, ed è il motivo per cui i salti riescono molto più alti. Ecco, certo, mi viene anche da pensare perché al Polo Nord siamo con la testa in alto e al Polo Sud non siamo invece con la testa in basso. Infatti, è sempre la forza di gravità che ci spinge verso il centro. Però è una di quelle cose curiose che quando guardi non riesci a renderti conto che possa essere così. Un'altra delle domande che vi fanno è perché si invecchia e non si può tornare indietro nel tempo. E questa è proprio è la domanda delle domande in cui i vari fisici teorici si stanno lambicando il cervello. Perché in realtà la dimensione tempo è una cosa molto strana. Noi nella dimensione spazio possiamo andare avanti, possiamo tornare indietro e possiamo andare di lato. Invece la dimensione tempo è l'unica dimensione per cui dobbiamo andare sempre avanti. In realtà non lo sappiamo. C'è una descrizione di alcuni fisici che dicono che in realtà, siccome c'è un principio della fisica che tutto deve andare verso il disordine, che è il principio dell'entropia, è molto più facile creare del disordine che dell'ordine. Faccio un esempio: è più facile mettere su molti chili che perderli. Tutti l'abbiamo provato, no? Ah sì, ma basta, tu vieni a casa mia, vedi che è più facile mettere in disordine che in ordine. Infatti un bambino ci mette un attimo a mettere in disordine la casa. È molto più difficile, bisogna mettere molta più energia a mettere in ordine. E ci sono molte più configurazioni, è molto più facile avere tanti disordini diversi, ma esiste un solo ordine. Sì. Quindi statisticamente si va sempre verso il disordine. Il disordine è questa la freccia del tempo, è semplicemente una freccia che ci porta dall'ordine al disordine, perché è più facile fare disordine. La natura ci mette meno energia a fare disordine, quindi naturalmente andiamo dritti, tranquilli, sorridenti verso un grande disordine. Ecco, bene, questa è un... non so se vederla col sorriso, però io sì la vedo col sorriso, perché bisogna, poi nel famoso... nel famoso opportunità. Esatto, nel famoso disordine poi si trova anche l'ordine, no? Dovrebbe funzionare così. E, sì. Una domanda sicuramente molto difficile a cui rispondere è: ma prima del Big Bang che cosa c'era? Dunque, il punto anche quello, non lo sappiamo, ci sono delle tentativi di ipotesi, ci sono due scuole di pensiero attualmente. Prima del Big Bang non c'era niente perché non c'era il prima, perché il prima vuol dire che è una cosa che viene prima di adesso, sì, e quindi è il tempo. Se non esisteva il tempo, non esisteva un prima, quindi non esisteva niente. Ovviamente a questo punto i bambini iniziano a tirarmi. Diventa filosofico il problema, di conseguenza è lì più difficile. Infatti, però normalmente si dice ai bambini: allora tu fai finta che non esista un prima. Come posso dire cosa c'è il prima di quando non c'è il prima? Certo. E questo ovviamente poi tornano a casa, fanno le domande ai genitori, che normalmente mi insultano via telefono dicendo cosa gli hai raccontato. L'altra cosa invece è che in realtà forse un prima c'era, noi siamo immersi in un super universo molto più grande, all'interno del quale si stanno formando tanti universi, quindi noi siamo uno dei tanti, noi abbiamo tanti fratellini, il nostro universo ha tanti fratellini, che si stanno formando adesso, prima, dopo, e quindi in realtà c'è un prima, secondo alcuni fisici teorici. Quindi l'inizio dell'universo in realtà è l'inizio del nostro, che non è l'inizio dell'universo di qualcun altro. Sì. E quindi ogni tanto fioriscono. Noi capitiamo, a un certo punto siamo capitati. Ecco, è un po' come i fiori in un prato. Sì, ci sono, certo, tanti fiori di prato, questi non sbocciano tutti allo stesso momento, no. Uno sboccia prima, uno dopo, e noi siamo un fiore di questo grande prato. Allora qui arriva l'ultima domanda che ti fanno i bambini e che ti faccio io. Arrivano gli alieni, no? A questo punto dovrebbero, secondo questa teoria, gli alieni da qualche parte ci sono, anche se magari non si sono mai incontrati, non ci siamo mai visti, eccetera. Però chi è che dice che non ci sia un altro pianeta? O ci sarà? Ecco, magari siamo noi gli alieni per qualcun altro, anzi sicuramente. Funziona così. E chissà come sono questi. E chissà come sono fatti, chiaro. Chissà come fatti. Allora, una cosa si può andare un po', diciamo, a ragionamento fisico. Probabilmente sui pianeti che hanno molta massa c'è molta gravità, come si diceva prima, e quindi probabilmente gli alieni tendono ad essere molto più schiacciati, molto, un po' come dire una persona molto bassa e molto grossa, perché sì, deve combattere una forza di gravità, il proprio peso accresciuto. Quando se l'alieno si è sviluppato su un pianeta con poca gravità, questi sono dei gran spilungoni allungati, un po' come i danesi, come ci immaginiamo, sì, gli svedesi, ecco. Ma non è detto che abbiano i due occhi, il naso, la bocca, eccetera, no? Infatti, ma ragionevolmente una forma di bocca serve, perché la, sì, nostra cultura è basata, è cominciata su delle storie, quindi su una tradizione orale, su una comunicazione, quindi verosimilmente un modo per comunicare devono averlo. Per forza. Quindi, verosimilmente una forma di bocca o un'altra forma di a meno che non vadano col pensiero come gli alieni immaginati da Spielberg, no? Sì, naturalmente, però diciamo che noi non abbiamo una teoria fisica della trasmissione del pensiero, quindi probabilmente non c'è, è molto più facile far passare i suoni attraverso un'atmosfera. E poi il colore, Dio solo lo sa, uno studio che ho visto l'anno scorso sul colore per esempio delle piante, da noi hanno le foglie verdi, sì, su un pianeta che ruota intorno a una stella rossa le piante hanno le foglie che verosimilmente sono o nere o viola scuro. Quindi anche gli alieni, il colore degli alieni dipenderà molto dal tipo sulla stella attorno a cui il loro pianeta ruota. Quindi possono essere verdi, potrebbero essere viola scuro, potrebbero essere neri, dipende un po' dalla luminosità, dal colore della, ecco, stella. Non me ne vogliano quelli che credono negli avvistamenti alieni, io ho la mia personale teoria, però ecco, io finché li vedo nei disegni, nell'immaginazione di chi li avrebbe incontrati, più li vedo simili a noi e più capisco che non è così. Infatti, verosimilmente è così. Sì. Potrebbero essere dei paccherozzi, tanto per avere un'idea. Esatto, chissà, quando ci incontreremo magari sarà come Men in Black, no? Li abbiamo intorno a noi, non ce ne siamo ancora resi oppure conto. Oppure potrebbero essere dei discendenti dei dinosauri, perché ricordiamoci il fatto che 65 milioni di anni fa è cascato un asteroide che ha ucciso i dinosauri. Questo per noi mammiferi è stata una gran fortuna, che ci ha spianato il campo. Se non cadeva quell'asteroide, probabilmente in forma intelligente si sarebbero evoluti dei dinosauri. Chiaro. E poi io sono anche convinto che potrebbero anche essere meno intelligenti di noi. Non è detto che siano superiori, come invece li immaginiamo sempre. Da un certo punto di vista l'evoluzione dell'intelligenza non è la fine ultima di una cosa, ma è un accidente che noi abbiamo usato per adattarci al nostro habitat. Chi vivrà vedrà, così si dice in questa occasione, no? Perfetto, grazie Sandro Bardelli. Va bene, grazie a te. Ciao, buona domenica, grazie. Ciao. Tra poco invece andremo a scoprire con la nostra glottologa quali sono... come si fa a scoprire la nascita di una parola, da dove arriva, perché c'è, perché è scomparsa, perché sembra una cosa semplice, ma in realtà è molto, molto complessa. Il riposo del guerriero. Mi fa ridere che quando si parla di questi macrosistemi, dove siamo, chi siamo, ci sono altre persone, comincia l'angoscia fra gli ascoltatori, dice no, non ditemi cosa c'era prima del Big Bang, perché solo pensiero mi scoppia la testa. Qualcun altro, Cinzia, che scrive: non mi dite che siamo dentro un universo più grande, perché sennò la mia claustrofobia mi mangia viva. E perché in effetti sono pensieri, no, che arrivano. Francesca Dragotto, ciao, buona giornata, ciao. Ciao, buongiorno e buona domenica. Alla nostra glottologa. Senti, oggi alcuni ascoltatori sono in vena di polemica, non so perché, non sentiranno la primavera. Allora, qualcuno dice, ma anche voi con delle canzonette inutili, scrive Luisa. Allora io volevo far capire che la canzone in realtà non è mai inutile. Scrivere una canzone non è facile e alcune canzoni hanno dei testi che sono straordinari, dai quali si può anche imparare molto. L'abbiamo già detto in altre occasioni, quindi volevo sottolineare questo. E poi un'altra domanda invece che ti riguarda ancora di più, Francesca, anche perché so che tu ami molto i testi delle canzoni, per cui è questa. In italiano non esiste water o water, scritto con la W doppio senza. Si chiama vaso sanitario, visto che ascoltano anche i bambini, usate termini appropriati. Uffa. Oh, spieghiamo. Beh, ormai è talmente integrata la parola che non ha senso, si tratta di lottare inutilmente contro un'abitudine che ha preso talmente piede nella nostra società e nella nostra lingua, che insomma mi sembra in questo caso energia sprecata. Originariamente si parte da water current, acqua corrente, perché ci si riferisce proprio all'azione di portare via liquami attraverso dell'acqua che scorre. Naturalmente questo ha lasciato nella nostra lingua VC, pronunciato VC perché noi non abbiamo una pronuncia equivalente a quella di W, a meno che non diciamo WC, però diventa una cosa antieconomica da pronunciare, si perde la rapidità con cui invece la rende l'inglese. E naturalmente abbiamo tutta quanta una gamma di parole alternative che ci permettono di riferirci alla stessa cosa. Pensiamo anche solo a toilette, ritirata, parole che alcune desuete però continuiamo a ritrovare magari in degli ambiti ristretti. Penso a ritirata, su vecchi treni c'erano delle etichette o comunque delle targhette sopra la porta del bagno, parola antichissima dal mondo greco, passata attraverso il mondo latino, sembra che etimologicamente avesse a che fare con la vasca, quindi comunque sempre con l'idea del recipiente che contiene del liquido. Quindi, stringendo sulla domanda dell'ascoltatrice, va benissimo salvaguardare i termini della nostra lingua, ma c'è una soglia oltre la quale non ha più senso la lotta, perché si tratta di prestiti, originari prestiti, ormai talmente integrati da sentirli come nostri. La pubblicità poi li usa anche, scusami, poi parleremo di pubblicità dopo di te. Io insomma, ecco, un prodotto per lavare il vaso sanitario non l'ho sentito, magari da domani potremmo usarlo, ma semplicemente perché si farebbe più ascoltare, perché sarebbe diverso dal solito, no? Però non credo che avrebbe moltissima presa su un potenziale ascoltatore. Finisce che lo mettono nelle piante poi alla fine. C'è il caso di un colluttorio che recentemente ha dovuto proprio scrivere che è per uso orale. Va bene, infatti lo sappiamo di conseguenza. No, era un prodotto per l'igiene intima. Ah, è vero. Sì, che non andava usato come colluttorio. Qualcuna l'ha usato come colluttorio. Sì, hai ragione. Quindi bisogna stare attenti anche in questo. Allora, oggi siamo con te per cercare di capire come si fa cioè da un glottologo, da dove parte, che cosa deve fare, quali sono i passaggi e quanto tempo richiede, penso tutta la vita, ma comunque sia, volevo cercare di far capire ai nostri ascoltatori, anche per mia curiosità, ma penso anche quella di chi ci sta ascoltando, come si fa a svolgere il vostro mestiere e quanto sia complicato. Ecco, è caduta perché dice è troppo complicato, io non voglio in nessun modo raccontarvi questo. Allora, appunto, nella puntata di oggi dove parliamo di come si fa, vi invito anche a scrivere delle vostre curiosità, siccome oggi cercheremo un po' di spaziare con argomenti diversi e molti ospiti. Se avete anche qualche curiosità particolari che riguardano proprio un mestiere oppure riguardano determinate azioni come quelle che abbiamo chiesto a Sandro Barrera all'inizio, fatecelo sapere. Non so chi dei due ho, e Francesca ancora. Okay, eccomi. Sì. Sei caduta. La domanda, come si fa? Sei svenuta, ma è ovvio. No, sono caduta tanto per avere un filo conduttore con l'intervento di Bardelli di prima, vado verso il centro della terra che è più pesante. Allora, da dove si parte, Francesca? È la domanda più difficile che si possa porre a qualcuno che tenta di lavorare con le etimologie, perché si parte naturalmente da una curiosità, dal perché si dice in questo modo, da dove viene la parola, ma che significava. Questo perché, al di là del linguista, chiunque, qualunque parlante ha curiosità etimologiche. Tutte le volte in cui ci poniamo degli interrogativi circa la provenienza di una parola o la sua frammentazione in significati diversi, ci poniamo in una prospettiva etimologica. Naturalmente, e qui mi riferisco al significato della parola etimologia, oggi non intendiamo più la ricerca del vero, questo perché l'etimologia nasce in un contesto in cui si credeva che nella parola doveva trovarsi predicata necessariamente una qualche qualità dell'oggetto. Oggi per noi che ragioniamo ipotizzando una concezione convenzionalista della lingua, quindi si dice così perché ci siamo accordati nel dire che l'arancio significa frutto, arancione con degli spicchi, ecco, per noi il discorso sul vero è superato e si tratta di ricostruire storie di parole e storie che confluiscono nell'identificazione della radice prima di una parola. Insomma, esistono due diversi modi di fare etimologia. Nel caso del primo modo, appunto l'etimologia intesa come storia della parola, facciamo l'albero genealogico, ci spostiamo indietro nel tempo, cerchiamo di capire dove la parola o l'antecedente della nostra parola è attestato, con quali significati, fino ad arrivare ad un punto di prima attestazione, un ceppo originario, un testo, le origini, che costituisce il punto di partenza di tutto quanto il viaggio. Qui, volendo, scatta il secondo tipo, e il secondo tipo di etimologia è un processo più complesso dal punto di vista tecnico da portare avanti, perché si tratta di ragionare per induzione. Quindi, se ad un certo punto della storia ci siamo ritrovati con questa parola che ha questo determinato significato, da qualche parte deve essere venuto fuori. Che forma ipotizziamo alla base di questo elemento? E quindi sulla base di quello che abbiamo proviamo ad immaginare quello che ci doveva essere prima, un po' come il discorso sul Big Bang, sull'universo, il sistema, l'ambito di ragionamento è lo stesso, ragioniamo su qualcosa che non abbiamo di fronte ma che dobbiamo immaginare se vogliamo spiegare determinate forme, ecco, o però determinati significati. Questa seconda parte riesci a... l'approccio, la seconda parte riesce ad averlo soltanto nel momento in cui tu hai molta conoscenza, perché devi anche capire qual era il momento storico, cosa stava succedendo, no? Cioè, c'è molto altro oltre la parola per arrivare a lì. Naturalmente sì, per prima di rispondere a questa tua domanda vorrei fare un esempio così chiariamo cosa intendo. No, prendiamo una parola dalla frequenza altissima come l'italiano fratello. Sappiamo tutti che l'italiano deriva dal latino, quindi ci aspetteremo di trovare l'antecedente italiano di fratello, l'antecedente dell'italiano fratello nel latino, in un equivalente latino. Noi andiamo a vedere cosa è attestato in latino e troviamo frater, che in italiano appunto ha lasciato frate inteso in senso religioso. Sì. Allora l'etimologista, il linguista che si pone in una prospettiva romanza, quindi di rapporto madre-figlia latino-italiano, si deve chiedere, ma fratello, visto che è una parola del lessico fondamentale che usano anche i bambini, da qualche parte deve essere venuto fuori, perché non utilizziamo frate, come invece fanno altri ambiti romanzi? E per frate invece è un'altra cosa il frate oggi, no? Esattamente, allora ci si mette a scavare, perché nel latino classico, nel latino dei testi più nobili, noi l'antecedente di fratello non lo troviamo. Se andiamo a scavare in tipologie testuali meno ritenute, meno pregiate, perché naturalmente non legate alla poesia, ai testi a testi di grandissimo contenuto, troviamo una lista di parole compilata presumibilmente da qualche grammatico in cui si dice fratulus non fratellus. Questo che significa? Il diminutivo di frater, quindi il diminutivo di quella parola che noi ci aspetteremmo, no? Non si dice fratulus ma fratellus. Fratellus quindi era un diminutivo di frater. Questo che significa? Che l'italiano, la lingua dell'uso, ha continuato una forma che non era attestata nella scrittura, ma che doveva necessariamente essere impiegata e che significava letteralmente fratellino. Questo perché? Perché nell'oralità siamo più portati a usare i vezzeggiativi, i diminutivi, sì. Esattamente. Quindi l'antecedente del nostro fratello è una parola che, pur non essendo usata nello scritto, doveva necessariamente circolare. Ora però il procedimento che ho fatto è un procedimento etimologico che avrei dovuto fare comunque anche se non avessi trovato quella lista di parole. Perché? Perché altrimenti quell'ellus dell'italiano non lo riuscirei a spiegare in nessun altro modo. Quindi c'è un punto oltre il quale bisogna rischiare, bisogna lasciare il testo per andare a congetturare. Naturalmente una volta che congetturo quello che c'è alla base di una forma, è quello che abbiamo fatto tanto tempo fa con escort, quando è divampata la questione delle escort, devo dar conto delle forme che le ipotetiche parole figlie della parola che sto congetturando hanno acquisito nel corso del tempo. Quindi non è che è sufficiente dire, secondo me la radice, quindi l'etimologia radice è questa. Una volta che l'ho ipotizzato, devo spiegare in che modo si sia passati da quella forma radicale alle forme che trovo storicamente attestate. In altre parole, si parte da un tempo che è vicino a noi, si risale indietro nel tempo per poi ritornare al nostro tempo, perché bisogna motivare sia quello che è rimasto simile sia quello che invece è cambiato notevolmente. Ecco, quando parli di consultazione per andare a vedere dove sono attestate le parole, quali strumenti si usano? La risposta varia a seconda della lingua nel cui ambito ci muoviamo. Abbiamo lingue come l'italiano che dispongono di repertori meravigliosi, ti parlo di dizionari di 20-25 volumi della lingua italiana, in cui troviamo traccia di tutte le principali attestazioni nei principali. Quindi diciamo che è un lavoro preventivo già fatto, quello che uno dovrebbe fare in biblioteca lo si ha già a disposizione, tra virgolette. Sì, non fatto completamente, questo perché? Perché naturalmente mentre etimologia intesa come storia della parola si poggia su un qualcosa di più certo, ovvero le attestazioni scritte, io lo trovo nel dizionario semplicemente perché l'ho trovato da qualche parte, nel caso invece del viene da, l'origine della parola, il discorso lì si fa appunto sempre più traballante, anche perché abbiamo tantissimi termini che hanno o etimologia incerta, sconosciuta, pur essendo termini di altissimo uso, penso a due sole parole, rosa e tesoro. Queste parole le ritroviamo quasi identiche in latino, una delle due ha un antecedente che è greco, quindi la ritroviamo veramente da tantissimi secoli, però per quale motivo il tesoro abbia una radice originaria tesauros in greco nessuno lo sa. Quindi i dizionari sono costretti a chiusare di etimo sconosciuto, di etimo incerto. E questo si potrebbe, questa stessa notazione la si potrebbe utilizzare per tantissime parole, perché c'è un punto oltre il quale non si riesce ad andare. Vabbè, come il nostro Big Bang, in poche parole. Esattamente, no, esattamente, sì, sì. Diciamo come, quindi è un cerchio, parliamo della stessa cosa, pur parlando d'altro. Parliamo della stessa cosa, e per chiudere sulla tua domanda, c'è un punto oltre il quale l'etimologia si deve sostanziare con il piano culturale, perché la parola non è un'entità algebrica, ma un elemento che sostanzia la comunicazione tra le persone e che si sostanzia, cioè quindi è che trae proprio l'infa vitale dal modo in cui le persone la utilizzano durante la conversazione. Se noi rinunciassimo a aggiungere il dato culturale al dato linguistico, non potremmo mai spiegare la differenza che in latino abbiamo tra due verbi, agere, pronunciato agere nella forma classica, e ducere, ducere, che hanno lasciato in italiano tantissime parole, pensiamo a agenzia, agibile, agente, attore per quanto riguarda il primo, e l'ovvio duce, ma anche conduzione, condurre per quanto riguarda il secondo. Perché ho preso questo esempio? Perché chi si cimenta con il latino trova per tutti e due il significato di condurre, e allora a quel punto si deve porre una domanda: che senso ha che una lingua abbia per l'idea di condurre due parole così completamente differenti? Sono perfettamente sinonimiche? La risposta è no, ma questo lo possiamo dire soltanto scamando all'interno della cultura, ma non di quella latina, ma di quella che il latino ha ereditato, la cultura indoeuropea, e scavando e confrontando le radici di queste parole con le radici affini che troviamo in altre lingue imparentate con il latino, cosa scopriamo? Che c'è una differenza di prospettiva, perché in un caso abbiamo, nel caso di ducere o ducere, quello che si porta dietro gli altri, quindi è un condurre in cui si sta davanti e tutti gli altri vengono dietro. Nel caso di agere invece è esattamente il contrario, si portano gli altri ma spingendoli da dietro. Sembrerà poco, però c'è un cambio. No, certo, assolutamente, dei ruoli. Allora, abbiamo capito che, vabbè, lo sappiamo già, è tutto molto complesso e che è meglio ascoltare te piuttosto che studiare per riuscire ad arrivare a dove sei. A parte gli scherzi, c'è Matteo che sento che ti sta reclamando. E, Francesca, grazie davvero, tanto noi ci sentiamo sempre, e abbiamo capito che dietro una parola c'è veramente un mondo, e anche un mondo sconosciuto, proprio come prima del Big Bang. Grazie, sì, grazie Francesca. Grazie a voi, spero di essere stata chiara. Sì, sicuramente, ma io ero particolarmente attento, ma so che il mio prossimo ospite era ancora più attento di me, perché lui con le parole ha molto a che fare. Il riposo del guerriero. Ciao Michele Tosi, buongiorno. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Sei chiuso in bagno? Perché sento no, un rimbombo. Sì, sento. Infatti, so che tu, siccome hai a che fare con le parole, dici, io scrivo queste robe qui, no. Cioè, ecco. Magari. Michele Tosi è copywriter da tantissimi anni e purtroppo devo dire, Michele, perché ormai è una certa età anche tu. Ahimè, capito, sì, è così? Non si smette mai di scrivere. Assolutamente, assolutamente sì. E Michele ha scritto in moltissime campagne pubblicitarie di grande successo. E allora, dietro una pubblicità che sembra così banale, come prima scrivevano delle canzonette, no? Che sembrano così banali, in realtà ci sono molte cose, c'è molto da fare. Allora, come si fa a scrivere una campagna di successo? Allora, stringiamo un po' il campo, sempre come si fa scrivere una campagna, io mi fermerei solo al titolo che sì. compete. Mi hai anticipato questa domanda e mi ha messo in imbarazzo, perché dopo tanti anni uno si scorda, nel senso che diventa improvvisamente mestiere, un'abitudine. E quindi ci sono cose che fai in automatico, non hai un decalogo, diciamo. Ecco, sì. Si fanno in automatico, ma mi sono autoanalizzato e posso spiegare in breve come si fa, nel senso che ci sono due fasi, una da applicare prima di scrivere e una dopo. La prima è un fatto storico, nel senso che normalmente noi scriviamo per risolvere un problema di comunicazione, quindi legato a un prodotto. E questo prodotto ha una sua storia, quindi capire prima di tutto qual è la necessità di questo prodotto, se è un lancio, un rilancio, una novità, ha avuto dei cambiamenti, nuovi ingredienti da comunicare. E poi bisogna analizzare la storicità, come ha comunicato fino a quel momento. Ogni marca, ogni prodotto ha una sua storia, se non è un lancio, quindi ha un suo stile, ha un suo modo di parlare e bisogna rispettarlo oppure cambiarlo se è una necessità. Poi la terza fase è quella di guardare come parlano gli altri, ovvero la concorrenza. C'è un mercato molto ampio, gli scaffali sono pieni di concorrenti, capire cosa dicono gli altri, quindi quali sono i linguaggi, quali sono gli argomenti. Poi, altra cosa consigliata a tutti i grandi della pubblicità è avere il prodotto, soprattutto se sono auto, uno deve averla, no, nel senso, toccarla, provarla, assaggiarla, se è una cosa che si può masticare, sì. piuttosto che leggerla, avere modo di avere un rapporto con questo prodotto, per conoscerlo. Anche perché per riuscire in una campagna emozionale bisogna per forza crearsi un'emozione con l'oggetto, no? Tu hai già detto una parola magica, cioè in ogni scritto dovrebbe esserci un'emozione e questa emozione va comunicata, ma perché nasce dal prodotto, o se non c'è va comunque inventata e costruita, quindi deve avere comunque uno spunto che nasce dal prodotto. A questo punto, dopo aver fatto tutte queste analisi, cosa c'è in giro, qual è la storia, e provare, toccare, assaggiare, si comincia a scrivere. E il mestiere è quello di trovare il modo più semplice, diretto e innovativo per dirlo, compreso anche un po' di musicalità, un po' di ritmo, perché le frasi, le parole stanno insieme con un certo ritmo. Una volta scritto, e io parlo di scrivere tanto, perché non si trova il titolo, punto e basta, un solo, ma bisogna costruirlo, scrivere tanto, fare varie proposte, eccetera, io ho un metodo che è quello di tagliare per arrivare al minimo necessario, togliere tutte le parole inutili. A questo punto si rilegge tutto e secondo me da analizzare in maniera molto critica quello che si è scritto, si lascia decantare normalmente per un certo periodo di tempo. E dopo lo rileggi, perché certo, perché sennò poi ti innamori della creatura senza. Bravo, invece devi un po' estragnarti da quello che hai fatto per rivedere. Ogni scarafone è bello, ma certo, sì. In questo caso bisogna essere un po' critici e capire tra queste cose qual è quella più nuova, sorprendente o provocatoria o affascinante. E qui sto già elencando una serie di stili e modi, cioè la provocazione piuttosto che l'evocazione o la sorpresa. Ecco, un'altra cosa che sì. dimmi, scusa. No, no, la curiosità era se quel famoso, l'idea, no? Tanti pensano che il copywriter quando scrive una pubblicità ha il colpo di fulmine, il colpo di genio, ecco, in realtà è un colpo di genio che arriva solo se a monte c'è tutto quello che hai detto, se no... Sì, secondo me sì, nel senso che il colpo di genio è apparentemente tale, un colpo di genio. È tale solo se risolve tutti quei problemi che ho detto a monte, perché ovviamente deve esserci un'intuizione, può esserci un'associazione di parole, un'evocazione. Ma ti arriva soltanto se tu hai il background alle spalle, tutto quello che hai detto prima. Sì, ecco, quelli che noi chiamiamo i paletti. Ci sono dei paletti per cui fare uno slalom. E questo slalom più è bello, perfetto, lineare, se evita con maestria questi paletti, mi tiene conto. Poi, quello che ci siamo già detti prima, evocare comunque una storia, un'emozione, sì. Questo è un booster, un turbo, una cosa che fa diventare immediatamente qualsiasi informazione pubblicitaria una campagna, quindi un'evocazione, una cosa che rimane più nella mente che non dire è bello, è buono, beh, tocchi, è bravo. In qualche modo tocchi il cuore, ecco, adesso non vorrei usare una parola alta, però è così, no, deve funzionare così. Il grande signor Ogilvy, fondatore di cui ne so qualcosa, network, sì, esatto, certo. Continuava a dire delle storie, racconta una storia ogni volta che scrivi. Niente, quindi io direi non dare mai nulla per scontato, che è un altro errore in cui si incappa molto spesso, perché a furia di fare tagli di sintesi nelle frasi, nelle headline, nei titoli, nei slogan, togli, poi uno lo legge e non capisce più niente, perché è così stato lungo il lavoro di decodifica, analisi, che uno in due parole ha già capito tutto, se sa tutto quello che si sta dietro. Ma chi lo legge per la prima volta a volte non capisce, quindi bisogna anche rifare l'analisi con questi occhi, quello di non dar mai niente per scontato. Ecco, quindi è molto più difficile, quindi anche quando leggiamo una... Beh, ci sono anche le campagne pubblicitarie brutte, i titoli brutti che esistono, però ci sono delle... Spesso, e forse più spesso, si leggono dei titoli di pubblicità e noi dice ma che cretinata. Ecco, invece c'è molto dietro quella che consideriamo cretinata, e quindi prima di dirlo forse dovremmo pensare e contare fino a 10. No? Sì, io spero che no, dovrebbe essere così, guarda, anche per tante cose. No, adesso non parlo, ma ciao, grazie Michele, buona giornata, grazie. Ciao, buona domenica. Che ride, ma sa anche perché. Alberto Zamperla, adesso ho dovuto salutare Michele velocemente perché Alberto Zamperla sta per partire, mi sembra, per la Germania. Buona domenica. Presidente, buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno. Io sono con Alberto Zamperla, il presidente della Zamperla, è una società, una ditta italiana pregiatissima che costruisce giostre meccaniche in tutto il mondo. Stanno facendo Coney Island, forse è finita, Alberto, non so quanto, perché è un po' che ci state lavorando. Sono di ritorno da New York, ecco. In transito per ritornare a Venezia. E stiamo aprendo il lotto C, abbiamo un ottimo rapporto con la municipalità, infatti martedì ho incontrato Bloomberg che è venuto a benedire, diciamo, assumiamo parecchio personale in loco. Coney Island è una delle zone più depresse di New York e Bloomberg si è messo come obiettivo di rilanciare quell'area e noi siamo un suo strumento. E martedì abbiamo iniziato la selezione di 400 persone per la nuova area che apriamo quest'anno e la apriremo con Bloomberg l'ultima settimana di maggio. Siete un fiore all'occhiello dell'Italia, assolutamente, e anche se tanti non possono crederlo, perché quando si pensa alle giostre meccaniche si pensa all'estero, immancabilmente è così, ma noi siamo fatti così, invece no, pensiamo all'Italia. Alberto, quali sono le chiavi per studiare un'attrazione meccanica come fate voi, perché abbia successo e possa imporsi nel mondo? Allora, io descrivo sempre che il nostro lavoro, siamo dei grandi cuochi, perché riusciamo a prendere tutti quanti gli elementi, i tedeschi sono bravi meccanicamente, o anche i giapponesi, in più di tutto, a tutto questo cose che vanno messe assieme è l'esperienza, e noi italiani siamo geniali, abbiamo fantasia, non ci sentiamo i padroni del mondo e ascoltiamo e guardiamo, noi siamo sempre pronti a metterci in discussione ogni giorno che si poter migliorare le cose, questo è il nostro successo. Ecco, essere fantasiosi, bravi ingegneri, ma da voi più grandi le abbiamo fatte noi italiane, e perché non ce ne vantiamo? No, no, dobbiamo, ma io sono di quella linea, Zamperla. Senta, ma lei lo sa, soffriamo in giro per il mondo, ma immagino, per l'immagine Italia, ma a scuola perché ci insegnano quattro stupidaggini e non ci fanno sapere che gli orologi meccanici li abbiamo inventati noi? Avevamo delle repubbliche marinare che controllavano tutto il Mediterraneo, avevano inventato i sistemi di navigazione, eccetera. Perché ci massacriamo in casa? Perché siamo abituati a siamo fatti così, questo lei lo sa meglio di me. Perché io devo essere ricevuto da Bloomberg, devo avere questo rapporto con la municipalità che quest'anno ci fa gestire due altri parchi a New York, quello che c'è a Flushing Meadow dove giocano a tennis e un altro a Central Park, perché facciamo le cose bene, perché queste cose dobbiamo riceverle in giro per il mondo dagli altri, anche in nazione, non sto parlando del terzo mondo, sto parlando di New York. Sicuramente. Allora, Presidente, la devo salutare perché abbiamo il GR e dobbiamo essere rigorose con l'orario. Siamo un po' forse usciti dal tema, ma lei ha toccato il cuore, che è la cosa che io preferisco in assoluto. E so che siete sempre molto disponibili e quindi in una puntata la rinviterò per allargare un pochino il discorso e parlare magari più dettagliatamente di Zamperla, di chi avete a lavorare con voi, gli italiani come si comportano, anche se l'abbiamo capito, entrare un po' più nel cuore anche dell'azienda e di quello che fate per l'Italia e per tutto il mondo. Grazie Presidente, buona domenica. Ecco, ci tenevo anche proprio a far sapere che esistono delle aziende italiane molto pregiate e stimate, sono tante. Il riposo del guerriero. Oggi è una puntata dedicata al come si fa a mestieri che non sono proprio comuni e che vengono raccontati di chi e da chi li fa. Allora, intanto vi ricordo i numeri, il messaggio al 349-238-6666, la nostra pagina di Facebook, Il Riposo del Guerriero, e poi il numero verde perché alle 11.30 giocheremo con il mistero in 24 minuti. 800-24-0024. Continuiamo a parlare, stiamo sempre nell'ambito delle parole, in qualche modo, con Francesca Serafini. Ciao Francesca. Francesca, buona domenica. Buona domenica, buongiorno. Oltre ad essere storica della lingua italiana, ha partecipato con ruoli diversi, story editor, sceneggiatrice, head writer a grandi serie televisive per Rai, per Mediaset, e quindi parliamo proprio delle serie televisive. Noi in TV vediamo i personaggi recitare, raccontare una storia, ma tutto parte da dove, Francesca? Sì, parte da una idea che viene a uno sceneggiatore, un personaggio, una storia che decide di proporre a un produttore, e se quel produttore si innamora di quel personaggio e di quella storia si comincia a raccontarla a puntate. Ecco, già bisogna sapergli a raccontare al produttore perché possa innamorarsene, no? Quello è il primo punto, forse è il più difficile in assoluto, infatti direi che soprattutto in Italia non ci si riesce quasi mai, nel senso che più spesso all'origine delle serie ci sono idee dello stesso produttore che poi a un certo punto chiama dei tecnici, degli sceneggiatori per realizzare la sua idea, certo. Sì, è molto difficile riuscire perché diciamo, a differenza di un altro tipo di scrittura come quella narrativa, dove tu sei nella tua stanza, ti fai abitare dai tuoi personaggi e poi provi attraverso le parole a sedurre gli altri con le loro storie, nel caso delle serie televisive c'è un investimento di soldi per poterle realizzare, per cui nel giudizio sono tutti molto cauti rispetto diciamo a una pubblicazione che certamente ai suoi costi, ma non quelli che avrebbe lo sviluppo di una serie televisiva. Perché devi recuperare i costi che sono alti, devi anche guadagnare, funziona così per un produttore. Ecco Francesca, quando ormai la produzione decide di produrre, appunto, si devono già caratterizzare i personaggi, identificarli, si lavora sul campo, si vanno a conoscere i personaggi nella realtà, come funziona? Dipende dal genere. Io per molti anni ho scritto un poliziesco, sì. E quindi in quel caso, raccontando uno spaccato preciso, era nostro preciso dovere documentarci sulla prassi, delle indagini, le procedure, insomma, perché per avere un'idea di verità, di realtà e anche nel rispetto, diciamo, di chi fa la professione, poi certo. No? Questo diciamo In linea generale la documentazione è sempre molto importante. Poi sentivo prima che parlavate di emozione, sì. È evidente che anche in questo ambito, anzi soprattutto in questo ambito, la partita si gioca soprattutto sul tipo di carattere che riesce a sviluppare nel personaggio. Per fare un esempio chiaro a tutti, nel senso di un personaggio strafamoso come il dottor House, è evidente che quando David Shaw lo pensa o lo scrive lui insieme agli altri sceneggiatori, stanno molto attenti alle procedure. Infatti normalmente noi scriviamo sempre con consultandoci con dei consulenti, però è evidente che se Dottor House arriva all'ottava stagione non ci arriva perché sono molto precisi e attenti sulle procedure mediche, ma perché David Shore ha inventato un personaggio straordinario con un carattere e una storia interessantissimi che continuano ad affascinare il pubblico che li segue. Ecco Francesca, ci sono degli elementi che ritroviamo sempre e comunque. Uno di questi è l'amore, no? Fra i personaggi. Amore o odio, cioè comunque lo stesso aspetto, l'altra faccia della medaglia. Questo è un elemento che ci deve essere proprio sempre, la storia d'amore o la storia d'odio. Diciamo che quale che sia il genere che si va a scrivere, è sempre molto gradita una linea sentimentale, però è anche vero che un racconto poi diventa interessante se c'è all'interno un conflitto tra i vari personaggi e la cosa interessante da risolvere è come questo conflitto viene affrontato e come si risolve. La risoluzione di un conflitto molto spesso porta i vari personaggi ad innamorarsi tra loro, per cui direi che non è solo un modo furbo di chi racconta storie di andare a toccare delle corde evidentemente comuni, no? Sì, sì, ma è perché è la realtà, cioè sì. Alla fine anche proprio nel racconto quotidiano che facciamo tutti noi della nostra vita, alla fine di una giornata, se sei con il tuo compagno, probabilmente gli racconti chi ti ha fatto arrabbiare in quella giornata e chi invece magari ti ha regalato un'emozione positiva, no? E quindi la riporti in quello che scrivi. E quindi diciamo, uno cerca, quando fa muovere i propri personaggi, di ricercare quel tipo di emozioni lì. Non è sempre semplice, anche perché una cosa bisogna dire rispetto alla scrittura per la televisione in particolare, che noi siamo degli scrittori un po' particolari, nel senso che siamo dentro un sistema produttivo, abbiamo molte persone che controllano e aiutano anche a sviluppare la nostra scrittura, per cui molto spesso un testo non ha un controllo assoluto da parte dello sceneggiatore, ma è la rappresentazione di più voci che sì, nel percorso è un vero lavoro d'equipe vero senso, e a volte è anche un freno, non credo che a volte possa anche essere un freno, non, è croce e delizia, è brava, che molto spesso a volte funziona ma a volte invece impedisce di raccontare delle cose. Esattamente Francesca, e qui siamo arrivati a un punto cardine: come si riesce a rendere credibile non solo il personaggio ma il dialogo, perché il dialogo è proprio la cosa della quale tu ti occupi e che io trovo veramente difficile da scrivere per un film e per uno sceneggiato. Io la trovo assolutamente fondamentale. Molto spesso noi, anche dei film, non solo delle cose televisive, ci ricordiamo la battuta o lo scambio straordinario, no? E specialmente in un sistema produttivo come quello italiano, che attraversa, come altri settori in questo momento, i danni della crisi, quindi non ci sono molti mezzi produttivi, non ci sono molte scene d'azione da girare, tutta la partita si gioca sul dialogo e spesso i dialoghi sono poco efficaci perché non si tiene conto di un fatto, cioè che la televisione usa come il cinema il mezzo visivo, cioè tu le vedi le cose oltre che citarle nelle parole, nel dialogo. Quindi il dialogo, per essere vero, deve essere innanzitutto davvero tra i personaggi e non per parlare allo spettatore. A volte noi avvertiamo un fastidio sentendo alcuni dialoghi perché ci rendiamo conto che lo sceneggiatore non sta facendo parlare i personaggi tra loro, ma siccome ha bisogno di passare delle informazioni allo spettatore, gli fa dire delle cose che non, come due per fare un esempio, no? Come due personaggi che hanno passato la serata insieme, serata che non abbiamo visto, che è citata off screen, come si dice in gergo tecnico, e loro si riraccontano la mattina la serata. Che tu dici non è credibile. Non è credibile perché che lo fa? L'hanno vissuta, basta un cenno per fare. Certo, per capirsi. Uno degli esempi. Quindi la cosa importante è ricordarsi di far parlare i personaggi tra loro. L'altra cosa è che uno scrittore deve dimenticarsi, uno sceneggiatore dovrebbe dimenticarsi della propria voce e di, a seconda del grado di istruzione, dell'età, del luogo di provenienza del personaggio, adeguare ad ogni personaggio la giusta voce. Farlo parlare come parlerebbe nella realtà. Esattamente. Facendogli usare i vocaboli che userebbe, se no non è più credibile. Espressioni. In modo di. Certo. Questo ovviamente tenendo conto del fatto che in una realtà come quella italiana, dove a volte in alcune fasce sociali si parla ancora dialetto, bisogna dare, come si dice, una botta al cerchio e una alla botte, nel senso che tu devi anche qua trovare una via di mezzo tra la verosimiglianza e però anche la comprensibilità da parte di tutti. In tutta Italia, chiaro. Per cui è quella cosa che secondo me, per esempio, in una fiction di successo come Montalbano riescono a fare molto bene, nel senso che c'è una velatura di siciliano, però insomma lo riusciamo a capire. Infatti è di successo, un motivo c'è. Il riposo del guerriero. Francesca, Claudio in un sms si pone una domanda secondo me un po' filosofica, no? Dice: aiuto. La realtà in una fiction non esiste proprio perché si chiama fiction e quindi non dovrebbe esistere, non dovrebbe essere reale, no? Tra virgolette, qui questo è un po' filosofico secondo me, però il suo pensiero è: ma allora ci si affeziona di più alla ripetitività dell'appuntamento piuttosto che al, credo, al contenuto. Non è scritto, ma immagino di poter leggere così. O non è la ripetitività che fa il successo? Allora, nella serialità certamente l'appuntamento fisso è uno degli elementi che fa in modo che lo spettatore si possa affezionare al personaggio. Però la domanda che pone, diciamo, che definivi tu filosofica, sì, credo che a quella abbia risposto Hemingway parlando naturalmente di narrativa, ma insomma sì, anche la nostra è una, certo, forma di narrazione. E cioè la cosa importante, diciamo, è uno poi non racconta fedelmente la realtà, però la cosa importante, dice Hemingway, è non dire mai il falso. E con falso si intende la falsità delle emozioni, del tipo di situazioni che tu fai travasi. Quindi bisogna essere verosimili, nel senso di non raccontare, cioè quando tu racconti delle cose false che non stanno nella realtà, come il dialogo che dicevo prima. Quella secondo me è la fiction che non bisogna lì fare. Lì hai sbagliato. Lì hai detto una cosa falsa. Nella realtà quel dialogo non ci potrebbe mai essere. Mai verificare. Questo è, e io su questo, diciamo, cerco di essere molto vigile, compatibilmente, insomma. Ma questo dimostra il successo poi della tua professione, no? La differenza ci sarà da qualche parte, questa è una di quelle, ovviamente, oltre a saperlo fare. Francesca, ti ringrazio molto, grazie, davvero ci hai aperto un mondo e sicuramente... Grazie a voi, anche solo per una cosa, sì. Poi vi lascio, perché mettere uno sceneggiatore in una sequenza di professionisti come avete fatto voi è una carezza che ci date, nel senso che noi, come tutti gli scrittori, siamo un po' come quelli che fanno il calcio, no? Sembra che è una cosa di cui tutti possano parlare e su cui non serve una competenza specifica, per cui diciamo questo spazio, vi sono grata di questo spazio. Sei stata chiara, Francesca, tu la carezza l'hai data a me e a noi, ti ringrazio davvero. Buona domenica. Ciao. Che bello, Enrico Groppari, ciao, buona giornata. Ciao, come stai? Bene, vedi che arrivano le soddisfazioni alla fine, perché ma ci sono, certo, i mestieri, certo, nascosti in qualche modo, e io la cosa che mi piace è farli vedere, perché dietro ogni cosa che si dice, che si guarda e che si legge, c'è un mondo molto più complesso di quello che si possa immaginare. Un universo addirittura in continua espansione, come dicono i... non i filosofi. Noi l'abbiamo detto all'inizio della puntata, infatti, siamo così. È proprio così. Allora, Enrico, tu ti occupi di tante cose, di teatro, in modo particolare di cinema, hai avuto l'opportunità, e continui ad averla, di intervistare grandi artisti del mondo del teatro, del cinema, dello spettacolo. E anche della letteratura. Perché a volte ci sono anche i romanzieri, sono anche più interessanti da intervistare che non gli attori. Senza a volte, penso che sia così, ecco, perché gli attori interpretano un ruolo, sono sicuramente interessanti, ma chi ha fatto nascere quel ruolo arriva appunto, l'abbiamo appena detto, no? da chi lo scrive. Allora Enrico, che cosa bisogna fare, come ci si prepara per affrontare un'intervista che sia interessante, seria, ma anche divertente, che incuriosisca un lettore? Cosa c'è alle spalle di una persona che fa delle domande a un'altra persona? Beh, per quanto riguarda gli autori, naturalmente bisogna conoscerli, bisogna conoscerne l'opera. E bisogna conoscerli, ma più che leggerne tutta l'opera, che sarebbe anche impossibile, dati i tempi a volte stretti che abbiamo anche noi, è interessante capire qual è la personalità dello scrivente, che si evince naturalmente da un'infinità di sfumature, non tanto dalla storia in sé, come va a finire, come è congegnata. Per esempio, Graham Greene, che è stato un grandissimo scrittore e che io ho intervistato molti anni fa, stava sulla Costa Azzurra e sapevo soltanto di lui che scriveva di notte perché di giorno andava a bere cognac in un famoso locale chiuso, ma che veniva aperto soltanto per lui tra le 11 e mezzogiorno. Quindi quello che mi aveva incuriosito era proprio l'orario, perché era l'orario in cui nelle sue spies story, se possiamo definirle così, il suo eroe si prendeva una libertà assoluta e non diceva mai dove trascorresse quei 60 minuti, con chi li trascorresse. E allora io ho fatto una piccola ricognizione 3 ore prima di incontrarlo proprio in quel luogo, e ho capito che quell'atmosfera particolare, proprio l'incidenza del sole in quel momento, la Costa Azzurra sembrava spazzata soprattutto nei primi giorni di primavera da un vento gelido che ricordava quello che soffiava sulla Manica, lo rimetteva in comunicazione con i suoi autori, non con i suoi autori, mi sto correggendo, con i suoi interpreti, con i suoi detective che si muovono in un mondo anglosassone dove il sole naturalmente non appartiene al nostro Mediterraneo, è un'eccezione e non la regola. E questo lo rimetteva praticamente in sintonia con questo mondo crudele, con questo universo che esclude assolutamente la parola ma si concentra sui fatti, come se il cielo gli cadesse addosso, e questo dava ispirazione alle sue tragiche storie piene di humor ma anche di suspense. Certo, ecco, quindi questo, se tu non riesci a partire da lì, ovviamente non riesci poi a fare delle domande giuste al personaggio, no? Alla persona, sì, che è davanti. Sì, ma poi la cosa invece, per esempio per altri autori, penso a un autore, a un'autrice molto famosa negli anni 50 che ci ha lasciato qualche anno fa, come Françoise Sagan, era interessante invece prima di tutto cogliere le sue inflessioni al telefono per ottenere l'intervista. Da quelle capivi già tutto del personaggio, capivi che era una donna estremamente timida che per mettersi in luce aveva fatto in quegli anni delle cose incredibili, perché una ragazza della grande società parigina, dell'alta società, che improvvisamente si veste da uomo, passeggia praticamente a piedi nudi, compra con i denari guadagnati nel suo primo grande successo, Bonjour Tristesse, una macchina dopo l'altra, ha degli incidenti mortali, ma sfida apertamente il destino e coloro che la ritenevano assolutamente prive di qualità, era già un personaggio d'eccezione indipendentemente dalle storie che scriveva. E io infatti le dico, ma perché dice lei, dice, mi vuole intervistare? Dice, il mio successo è passato 10 anni fa, 15 anni fa, adesso scrivo dei libri molto diversi. E dico, signora, ma a me interessa proprio vedere la sua evoluzione. Lei si è messa a ridere e ha detto, beh, venga, io non la ricevo in casa mia, la ricevo nel mio studio. La farò aspettare 10 minuti e prima che lei mi veda arrivare capirà tutto di me. Infatti in questo studio era pieno non di diplomi universitari, ma addirittura di attestati in cui aveva vinto dei premi di velocità e aveva vinto dei premi anche per essere la persona più scorbutica di questo mondo. Ed è entrata in pantaloni con una specie di corona in testa, ma che era una corona di carta, fatta come quelle che i bambini sfoggiano, sì, a Carnevale, si comprano nelle edicole. Insomma, è essenziale entrare nell'originalità del personaggio, ecco, più che nel loro in. L'originalità è la chiave di volta proprio non solo dell'intervista, ma della scoperta del loro vero io. Come si riesce, secondo te, Enrico, a carpire, ecco, delle cose che magari la persona non vorrebbe dire, però alla fine gliele fai dire, ecco, la devi mettere a suo agio in qualche modo? Sì, a volte proprio anche la mia timidezza, perché esiste anche quello, sì, io cerco di usarla in modo, diciamo, fattivo, in modo... come uno specchio, in modo risolutivo. Sì, anche perché ci per esempio riflette. Ero molto intimidito a intervistare a casa sua, non l'avevo mai vista, Gina Lollobrigida alla vigilia dei suoi 80 anni alcuni anni fa, e allora, facendomi molto coraggio, ho fatto tutto io e le ho fissato un appuntamento alle 3:30 del pomeriggio, e lei, sorpresa probabilmente da questa assoluta determinazione da parte mia, mi ha detto ridendo: beh, ha fatto tutto lei, adesso non mi resta altro che dirle di sì. Ma per prima cosa mi ha detto: prima di farle vedere la mia casa, che è lo specchio della mia anima, deve vedere il mio giardino. E infatti mi ha aspettato alla porta della sua meravigliosa villa sull'Appia Antica e mi ha fatto assistere, era fine maggio, i primi di giugno, non mi ricordo più, di 3 o 4 anni fa. Nonostante non fosse la stagione, era stata una settimana caldissima e mi ha invitato a venire a vedere con lei la nascita dei cicognini, perché le cicogne facevano proprio il nido nel suo meraviglioso giardino vicino a uno specchio d'acqua azzurra, non grande come il lago Michigan, ma azzurra come il lago Michigan. Sì. Dopodiché siamo entrati in casa e prima di parlarmi di sé, mi ha fatto vedere ciò che aveva accumulato nel corso degli anni. Ma non mi ha fatto vedere soltanto i premi, naturalmente. Cioè, non era un'operazione nostalgia, ecco. No, non era un'operazione nostalgia, perché lei mi ha detto: io in fondo non sono mai stata la grande attrice che tutti voi sapete. Io soprattutto ho fatto del cinema per dare poi sfogo alla mia libidine, che è quella di creare delle opere d'arte, di dipingere, di fotografare, di scolpire. E mi ha fatto vedere su una meravigliosa sala del suo palazzo un quadro di Manet meraviglioso, e attorno al quadro, proprio concepiti come se fossero dei francobolli, degli autoritratti piccolissimi che esprimevano lo stupore e la meraviglia, diceva lei, di trovarsi lì vicino a un maestro della pittura come Manet. Ed è stato un incontro bellissimo, perché più che parlarmi dei suoi partner, di tutto ciò che sappiamo di lei, della sua carriera, di Hollywood, eccetera, eccetera, mi ha parlato anche delle persone che, impazzite per lei, ma timorose proprio della sua immensa popolarità, avevano rifiutato di girare con lei, come il famoso film Lady L, per cui era tutto pronto negli studi hollywoodiani della Metro Goldwyn Mayer, avevano ricostruito tutta la Parigi dell'epoca degli anni 20, erano pronti i costumi, era pronto tutto, e alla fine, dopo averla guardata a lungo e ammirata a lungo, George Cukor disse: sei già un capolavoro, io non riuscirò mai a fare di te un personaggio, mi devi scusare Gina, ci troveremo in un'altra occasione, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. E il film cancellato per sempre, ma non con grande stupore, ma con grande meraviglia e con grande dolore da parte di entrambi. Ecco, sono queste le cose importanti che può dire, per esempio, anche un'attrice, una diva, non il fatto, non so, mi sono trovata benissimo con Errol Flynn. No, e poi sono le cose inaspettate, sono quelle che interessano chi ascolta e chi legge, ovviamente. Sono quelle che sono rivelatrici di una personalità in embrione, perché un attore è sempre in embrione anche dopo 30 anni di carriera, non sa mai che cosa il regista otterrà da lui, la sua fisiologia, la sua fisionomia, come cambierà nel corso degli anni a seconda di come viene inquadrato, a seconda oltretutto della storia in cui viene immesso ormai un personaggio che è il loro personaggio divistico, ma che deve assolutamente conformarsi alla nuova estetica del gusto, a cui naturalmente non è soltanto un livello di moda, di pettinatura, di trucco, di vestito, ma il fatto che l'attore deve essere come un camaleonte che cambia a seconda proprio del personaggio che si esige da lui nella vita. E quindi tu dici, lo stesso attore è in divenire ogni volta, perché deve ogni volta interpretare un ruolo nuovo. Enrico, io ti devo salutare, ma ti ringrazio molto per quello che ci racconti, quello che ci porti e quello che ci fai rivivere, ma sai che ci sentiamo anche nelle prossime puntate. Buona domenica, grazie. Va Enrico bene, Groppali, grazie. Ciao, buona domenica anche a voi. Buona domenica, è il momento di aprire le porte al nostro gastronauta. Il gastronauta Davide Paolini, ciao, ti tocca oggi nella puntata dove la domanda è come si fa a, raccontiamo anche come si fa a fare il tuo mestiere, cioè quello di cercare di capire, andare in giro, trovare, scovare chi c'è intorno a te, quali meccanismi. Quanto mondo c'è dietro tutto quello che ci racconti ogni volta nella tua trasmissione, nelle tue pillole e nel nostro appuntamento del Wine Bar? Bah, il mestiere del gastronauta è un mestiere che innanzitutto ci vuole della curiosità. Non bisogna mai accontentarsi di aver trovato e quindi di cercare sempre e soprattutto di mettere le antenne un po' su tutti i vari territori, quindi avere sicuramente delle persone che a sua volta ti segnalano dei prodotti, ti segnalano dei ristoranti, ti segnalano dei personaggi, soprattutto anche scartabellare, se vogliamo, giornali anche che non parlano di enogastronomia, però qua e là ci sono sempre delle informazioni importanti e sono le più inedite. Poi una volta che magari c'è una segnalazione, però sicuramente andare a verificare, nel senso che non accontentarsi di quello che viene detto oppure che ti viene riferito. E questo come andrebbe fatto in ogni notizia, no? Per ogni cosa, sì. La verifica, la scuola, sì. Dice che tutto va verificato. Ecco, tu nella memoria... Ma in questo caso ci vuole una verifica gustativa, ci vuole una verifica di controllo del posto, un po' diverso la notizia, tu fai una telefonata, incroci, qui invece è un po' diverso, non è che basta solamente una telefonata, ci vuole forse qualcosa di più, bisogna andare di viso sul posto, cioè quando senti parlare di un casaro e di un formaggio la cosa più corretta è andare a vedere, perché c'è poi la possibilità di farlo. Certo, Davide, tu hai una memoria straordinaria, che è una tua dote molto probabilmente, o secondo te è accresciuta proprio così facendo questo mestiere che è ricco di parole, di termini, di nomi, di etichette? No, guarda, probabilmente anche prima, quando facevo un altro mestiere, anche ad un periodo, se vogliamo, scolastico, universitario, ho avuto sempre una grande memoria, perché l'ho tenuta sempre in allenamento, cioè già da quando facevo il liceo e poi anche i primi anni di università avevo questa mania di catalogare, classificare, mettere via gli articoli, con molto casino, perché dovunque è andato ho raccattato caterve di cose che poi magari dopo mesi andavi a sfogliarle, allora erano già inutili, erano già bruciate, però ho sempre avuto questa questo punto di riferimento, e la memoria probabilmente è anche allenamento, quindi non è solamente una dote così che ti viene dal cielo, secondo me bisogna tenerla anche in allenamento, e questo sicuramente è un vantaggio non solo sul mio mestiere ma su tutti i mestieri. Poi se uno ha una memoria anche olfattiva e gustativa, sicuramente viene avvantaggiato da questo lavoro, non ci sono dubbi. Ecco, secondo te se c'è una difficoltà, è più difficile recensire che cosa? Ma più difficile molte volte recensire la prima volta che vai in un posto, in un ristorante, perché una volta solo probabilmente non basta, quindi non è che tutti i posti ci puoi andare due o tre volte, quindi sai, andando in un posto una volta solo diventa molto difficile. Anche un vino, io credo che tutto il cibo sia difficile da recensire, perché quello che conta molte volte è il momento e la situazione, è un po' quando si parla dei cibi afrodisiaci, no? Io dico sempre no, è la situazione, il momento che ti fa diventare afrodisiaco un cibo, è così, eppure la sensazione che tu provi quando bevi un vino. Molte volte si dice, sono stato in vacanza in Sardegna, mi sono portato il Casizzolu, che è un formaggio molto raro, anche molto interessante, te lo porti a Milano e dice, no, non c'ho più quel sapore che avevo trovato quando l'ho mangiato in Sardegna. Ecco, questo secondo me è un fatto, come posso dire, di sensibilità propria, ed è per quello che io sostengo sempre che il nostro giudizio è soggettivo e non oggettivo. su un prodotto, su un ristorante, su un cibo, su un vino. E quindi è ovvio che è delicato, cioè è relativo anche al momento. Senti, quando fai, non so, magari non ti è mai capitato, di prendere una cantonata, cioè magari una cosa giudicata in un momento sbagliato e quindi poi quando l'hai riscoperta ti sei dovuto ricredere, è successo? Mi è successo più volte, non una volta solo, mi è successo diciamo in un caso o nell'altro, mi è successo di giudicare magari in maniera negativa un vino, un ristorante, un prodotto, dopo l'ho riassaggiato e mi sono ricreduto. E così pure viceversa, di aver giudicato veramente eccellente un qualcosa, sentendolo una seconda o terza volta, ho detto beh, mi sono sbagliato. Ecco, quindi lì a quel punto lo si ammette tranquillamente. Ecco, perché, ma sì, si può, sai, anche perché quando ha a che fare con il gusto, hai capito? Il dover rettificare è un po' diverso rispetto a una notizia, in questo senso. Le cose cambiano. Sì. Perché sì, il piano sì, no, è sicuramente cambiano, poi cambiano anche, cioè ad esempio, un ristorante che tu ci vai, che ne so, due o tre volte in un periodo, in un anno, cose di questo genere. Poi torni dopo un anno, magari l'hai giudicato negativamente, lo stesso ristoratore è cambiato, cioè non solo tu. Però il tuo giudizio probabilmente è che lui ha fatto dei passi è cresciuto, avanti, ha migliorato, ha fatto dei passi indietro, sì. Certo. Senti, ma ti viene segnalato ad esempio questo, sei tu che lo scopri per caso o qualcuno si così dice? Ma, no, qualche volta no. Quando qualcuno mi dice guarda che non è così e io magari ci torno, vai a verificare, me giustamente me ne posso anche rendere conto, non sempre, perché sai, arrivano molte email fasulle, arrivano moltissime informazioni fasulle, quindi bisogna saperle, ormai bisogna saperle anche leggere, ma nonostante questo si continuano a prendere delle cantonate, no, continue. Vabbè, poi è il rischio del mestiere questo. Ah, assolutamente sì, poi questa comunque è la percentuale più bassa, adesso è semplicemente una curiosità. Davide, grazie e buona grazie giornata, buona domenica, ci sentiamo domenica prossima, noi siamo pronti a giocare, il numero verde 800 24 00 24, per voi fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. Il riposo del guerriero. Pronti per farvi avere 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, ammesso che riusciate a risolvere il mistero in 24 minuti. Un mistero in 24 minuti. La risposta a una notizia della settimana oppure un personaggio, qualcosa di molto conosciuto, quindi fate funzionare il vostro cervello, lo fate sempre, ma adesso in modo particolare, e ascoltando gli indizi arriverete alla soluzione, più indizi ascolterete e più il premio però si abbasserà. 800 24 00 24, subito col primo indizio. Hai fatto bene alla mia gente, hai fatto qualcosa di importante, in fondo a me piaceva volare. C'è una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino. E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe. Eccolo qua, questo è il primo indizio, una canzone molto famosa, scritta a tre mani, sono 4-6 mani, Jovanotti, Ligabue e Pelù. Davide dalla Spezia, pronto Davide, ciao, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Ciao, tre persone sono 6 mani, chiaro. Allora, vabbè, sai, cosa vuoi fare? Altro indizio o vuoi provare a... No, io mi fermo, provo. Sì, sento. Vai. Allora, io ho pensato al provvedimento del governo in merito al passaggio, insomma, sotto costa di navi di grande stazza, la cosiddetta, insomma, pratica dell'inchino, sì, quella che purtroppo ha provocato la gravissima tragedia del Giglio, insomma, che e quel mai più appunto si riferisce alla speranza, insomma, che questi eventi non si ripetano ancora, ecco. Direi che la deduzione è perfetta, ma non posso dire niente sulla risposta giusta, come sempre al 24esimo minuto. Grazie Davide, ciao. Grazie a te, ciao. Per te sarebbero 1000 euro. Nicolò della provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno Stefano. Cosa vogliamo fare, Nicolò? Per me è la cosa che Lucio Dallas ha disegnato, le carte a matita, quella cosa che ha fatto la canzone con Fiorello, credo per beneficenza. Grazie Nicolò, buona giornata anche per te. come sempre niente, non posso sbottonarmi. Andrea della provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Eccoci Andrea. Cosa vuoi fare? Ma allora anch'io do la risposta, perché se dopo l'indizio successivo. Ma io quello che non riesco. Allora, gli indizi servono ad avvicinarvi alla soluzione, non allontanarvi. Ecco, però curiosamente. Non avrei altre, magari dopo altre idee, insomma. Quindi proviamo con solo il primo indizio. Ma direi mai più non avremo più la possibilità di ascoltare la voce di Lucio Dalla, almeno dal vivo. Grazie Andrea, buona domenica. Altrettanto. Davvero. Un mistero in 24 minuti. No, c'è Emanuela da Verona. Ciao Emanuela, buona giornata. Buongiorno. Ciao Emanuela. Allora, che cosa vogliamo fare? Siamo ancora a 1000 euro. Oggi non ci scriviamo da qui. Sì, sì. Io anche ho bello. La mia risposta, ecco, unica. Anche tu. E riguarda? Sì. Dico? Sì, vai. Riguarda la rinuncia di Giorgio Napolitano a un nuovo settennato alla presidenza della Repubblica e quindi a un nuovo incarico a Monti, cioè mai più. Brava Emanuela, già brava nel senso, la risposta ci sta in pieno e non posso dire niente. Grazie Emanuela, ciao. Prego. Alberto da Pescara, buongiorno. Ah, buongiorno, senta, io volevo capire, ma cosa devo indovinare, un evento? Allora, può essere una delle notizie della settimana oppure un personaggio del passato, del presente, o qualcosa che conosciamo molto bene. Ti faccio un esempio, una delle risposte una volta è stata il Monopoli, sai, il gioco che tutti conosciamo, ecco. Per cui questo è, il range è o una delle notizie della settimana oppure un personaggio o qualcosa di molto conosciuto. Hai la possibilità di dare una risposta e avere 1000 euro in questo momento oppure ascoltare un altro indizio e quindi scendere a 500 euro. Secondo me è Berlusconi che ha detto che non si ricandiderà. Grazie! Grazie Alberto, può essere, come no, anche la tua risposta può essere giusta, ma come sempre solo al 24esimo minuto. Ugo della provincia di Milano, buongiorno. Pronto? Ciao buongiorno. Ugo, buongiorno, siamo ancora a 1000 euro, cosa vogliamo fare? Sono abbastanza indeciso, io sentirei il secondo indizio. Ecco, così magari stringiamo un po' il cerchio. Eccolo qua il secondo indizio. Eccoci qua, allora, questo è il secondo indizio, siamo a 500 euro, una famosa canzone di Mina, Insieme, si intitola. Allora io sono rimasto abbastanza dell'idea che avevo all'inizio, sì. Non mi ha aggiunto molto questa seconda purtroppo, la mia idea era quella della, diciamo, dell'Olanda che non è più d'accordo a consegnare altre tranche di aiuti alla Grecia. La terza volta. Certo, grazie Ugo, sai che non posso aggiungere niente, buona giornata, buona domenica. Andiamo avanti con Flavia, questa volta da Treviso, eccola qui. Flavia, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno signor Stefano. Buongiorno Flavia. Allora, anche io come il primo avevo già scritto questa risposta che diceva, che avrebbe detto. Lo studio per la legge che stabilisca nuove misure appunto sulla navigazione e frode delle navi. Però l'abbiamo già detto, quindi dobbiamo trovare un'altra risposta. Infatti volevo. Ma infatti questa era la mia idea ormai finita. Anche eccolo qui. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Potresti ascoltare un altro indizio? No, guardi, mi è venuto in mente come ho sentito stamattina presto il primo indizio e mi è venuto subito quell'idea lì. Non me ne vengono delle altre. Niente, Niente, sarà per la prossima volta. Flavia, sì, facciamola rigiocare, Flavia, visto che non ha risposto a niente. Grazie, Flavia. Grazie. Ciao, buona giornata, grazie. La potremo risentire. Alfonso da Napoli, buongiorno. Ciao, Stefano. Ciao, Alfonso. Ciao, cosa vogliamo fare? Che qui abbiamo 500 euro in questo momento. Senti, io questa settimana la vedo un po' difficile, quindi magari un altro indizio? Ecco, sì, però non ditemi che è difficile questa settimana, perché io adesso, quando vi do la soluzione, voi direte... Non era per niente difficile. Eccolo qua il terzo indizio. Ho voglia di rinascere e ogni volta è più forte perché non c'è tempo, non c'è limite. il terzo indizio, dentro ai tuoi occhi, Raff, siamo a 300 euro, Alfonso. Vabbè, Stefano, io dico Julian Assange, sì. Riguardo la notizia che insomma è stato trovato un file dove appunto si diceva che lui dovrebbe essere torturato, insomma questo file trovato all'interno degli archivi dell'agenzia Stratfor, quindi io dico Assange. Grazie Alfonso, sai che non posso dire niente, però ascolta la puntata fino alla fine. Bravo. Grazie, ciao. Grazie. Paolo da Pisa, buongiorno Paolo. Buongiorno. Cosa facciamo? La diamo la risposta, no? Manca pochissimo. Proviamo, ma in realtà non sono, diciamo, convinto. La morte di D'Urbecco, docenziato. Beh, no? Guarda che è successo già, credo, 2 settimane fa ormai, è una notizia vecchia, quindi non potrebbe comunque essere, Paolo. Allora ci rinuncio perché non me ne vengono in mente. Anche Paolo rinuncia, grazie. Ciao Paolo, grazie. Rinuncia Paolo, potrà rigiocare quindi. Quando non rinuncia può giocare ancora, anche la settimana prossima. Daniele, dalla provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno. Daniele, sai che non ha risposto nessuno ancora correttamente? Oh, questa è una bella notizia. Vediamo se tu mi rispondi. Allora io invece dico l'Oscar Mary Streep. Sì. Che ha dichiarato che non la vedremo più sul palco. Sul palco degli Oscar. Esatto, esatto. Ciao Daniele, buona Ciao. Giornata. Io non so, abbiamo un minuto, vediamo un po', credo, no? 2. Barbara, dalla provincia di Modena. No, 1. Ciao. Barbara, adesso... Sono in crisi. Perché mi sei in crisi? Mi metto in crisi con questi indizi. Ma dentro i tuoi occhi, insomma, guarda che con questo indizio, dentro i tuoi occhi, il mio nome è mai più. Insieme, com'è che comincia la canzone? Ecco, però ti sto aiutando troppo, Cioè, la canzone Insieme di Mina, tutti la conoscono per l'attacco, per l'inizio, per la frase iniziale. Te lo dico perché sta scadendo il tempo. Perché... Barbara. Dai, rinuncio anche così tu. La possibilità, sì. Va bene. E allora è scaduto il tempo, cosa devo fare? Sì, non c'è, abbiamo Adriano da Venezia, pronto? No, non è scaduto. Pronto. Adriano, ciao, tu sì, ce l'hai la risposta ciao. Giusta, vero Adriano? Ma che? No. Ma la notizia, cioè, ormai ho detto anche che è una notizia, cioè, ho detto tutto, adesso vi do la risposta. Io e te non mi viene in mente niente. Scusa Adriano, resta con me un attimo, sì. Perdonami, com'è che comincia Insieme di Mina? Io non ti conosco, io non so chi sei, giusto? Sì. Ok, il mio nome è la cosa che gli chiese, io non ti conosco, dimmi il tuo nome, perché ti sto guardando negli occhi, era la sfida del Notav con il carabiniere, l'abbiamo visto, questa, immagini, veramente dappertutto, su internet, hanno girato il mondo, ne abbiamo parlato, ne hanno parlato, hanno intervistato tutti, era la notizia più facile della settimana, quindi il mio nome mai più, perché comunque gli chiede il nome, dice io non ti conosco, come ti chiami, poi appunto non so chi sei, è una delle altre domande, e poi dentro i tuoi occhi, perché si guardavano negli occhi. Insomma, e poi le altre, devo dire che gli altri indizi avrebbero aiutato ancora di più. Mi dispiace, era difficile, Adriano? Sì, era difficile. Era difficile, ecco, sì, beh, certo, sì. Che non ci sei arrivato, era difficile. Ciao, ciao, ma guarda, ma non è vero, era la notizia più gettonata, è un modo brutto di dire le cose, lo dice solo Pippo Baudo, adesso l'ho detto anch'io, della settimana, per cui insomma, mi dispiace, ha mandato 1.000 euro l'altra volta, oggi non abbiamo dato niente, sarà per la settimana prossima, ci sentiamo ovviamente domenica prossima alle 10, vi aspetto, continuate a restare su Radio 24, tra poco dopo il GR c'è Si Può Fare con Alessio Maurizi, grazie a Giorgio De Luca in redazione, grazie a Stefania Tagliaferri in assistenza e Paolo Corleoni in regia. Buona domenica e soprattutto buona settimana da Stefano Gallarini.